Investire informati. Allora, ci ha scritto Luigino, dalla provincia di Cosenza, e ci racconta: qualche anno fa, complici tassi di interesse favorevoli, ho deciso di investire in certificati di deposito in valuta estera. 10.000 euro in sterline, 10.000 euro in dollari americani. Certificati di durata semestrale. Luigino, buongiorno. Il racconto adesso lo deve continuare lei. Buongiorno. Sì, sono andato avanti per qualche tempo in questo modo. Poi la banca non ha voluto più fare questa operazione, dicendo che dovevo prima cambiare le sterline e i dollari in euro, poi ricambiarle in sterline e dollari e reinvestirle, in modo che avrebbero fatto la cresta sia con la commissione sul doppio passaggio. Con la commissione e il cambio. E quindi non mi conveniva più, perché non era somme grosse. Gli interessi sono piccoli e sarebbe stato come mettere l'acqua in un colabrodo certo. Perdere pian piano il valore. Questo è il problema. Adesso io vorrei sapere come poter investire magari i dollari, perché con le sterline ho fatto un conto in valuta estera con spese ridotte e le investo in quel modo, ma i dollari non so come fare. Perché un conto solo posso fare, altrimenti certo. Sarebbe costoso. Lei, tra l'altro, Luigino, questo investimento vuole farlo anche perché questo denaro le serve, perché fa dei viaggi negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, giusto? Sì, vorrei fare dei anche viaggi. Per questo motivo. Alcune volte sono andato negli Stati Uniti e quindi è comodo avere ogni tanto mia figlia e le ho regalato qualche dollaro per poter spenderlo. Grazie Luigino. Allora, abbiamo invitato appositamente per lei da Torino Gianni Lupotto, il nostro consulente finanziario indipendente, amministratore delegato di Alfa, società di consulenza finanziaria, già noto da noi storicamente come Lupotto & Partners. Gianni, ben ritrovato e buongiorno. Buongiorno a tutti. Vi abbiamo chiesto appunto di studiare un po' attentamente il caso di Luigino, nel quale magari possono identificarsi anche altri ascoltatori. Oggi proveremo anche ad esplorare il mondo un po' più complesso dell'investimento in valuta, che non è affatto banale, perché quando ci avventuriamo su questo terreno dobbiamo essere disponibili anche a tollerare oscillazioni molto profonde del nostro investimento, soprattutto quando le divise sono molto lontane da noi e quando non sono quelle un po' più stabili come il dollaro, appunto l'euro, ovviamente, che è la nostra valuta, la sterlina o poche altre, insomma. Lupotto, investire in valuta è sempre un rischio, naturalmente poi dipende anche dagli strumenti che si utilizzano. Certamente. Io inizierei intanto complimentandomi con Luigino, perché ha fatto una corretta pianificazione finanziaria, cioè lui ha pensato di suddividere il proprio patrimonio e di conservare una parte di questo in valuta straniera, proprio in vista di utilizzi futuri nella medesima valuta, in questo caso viaggi in Inghilterra o negli Stati Uniti. Questo è un corretto modo di pianificare, perché consente di azzerare sostanzialmente il rischio valutario, in questo caso, certo. Per questa porzione. Allora, non ho percepito se lui lo ha detto o meno nel corso della telefonata, di certo ce lo aveva scritto. L'investimento in queste due valute lui le ha fatti, lo ha fatto appunto sottoscrivendo presso la banca che ha scelto dei certificati di deposito, uno espresso appunto in sterline, uno in dollari. Intanto cominciamo a spiegare a Lupotto che cos'è esattamente il certificato di deposito, poi andremo a quelli che vengono espressi in divise straniere. Esatto, cominciamo a definirlo. Il certificato di deposito è sostanzialmente uno strumento finanziario proposto per l'impiego della liquidità, generalmente a breve termine, di solito 18-12 mesi, anche se ce ne sono alcune versioni fino a 48 mesi. Può avere due forme: una forma cosiddetta one coupon, cioè un unico pagamento di interessi restituito alla scadenza del periodo di durata del certificato. Nel caso il certificato abbia una durata un po' più lunga, ci sono anche versioni che pagano una cedola periodica e al termine del periodo della scadenza del certificato viene restituito l'intero capitale. Questo è il meccanismo con cui funzionano questi strumenti. È possibile sottoscriverli anche in valute? Qui sarà interessante appunto spiegare come funziona il riconoscimento di questo coupon. Se uno investe, come ha fatto Luigino, 10.000 euro in sterlina, in che modo viene calcolata questa cedola che magari alla scadenza appunto viene attribuita? Questi certificati hanno un valore nominale, tipicamente 10.000, 20.000, diciamo, ed è questo valore denominato nella valuta di interesse. Quindi nel caso di certificati in sterlina o in dollari sono 10.000 dollari piuttosto che 10.000 sterline. L'interesse che viene corrisposto al termine del periodo di vincolo è quindi nella medesima valuta, quindi dollari o sterline. La meccanica quindi per la sottoscrizione, per il rimborso, è quella che il risparmiatore deve cambiare la valuta dall'euro al dollaro, con i dollari acquista il certificato e al termine della scadenza del periodo riceve i dollari maggiorati dell'interesse corrisposto dal certificato. E in questo caso, se il conto è denominato in euro, la banca provvede, come ci ha detto Luigino, ad un'automatica conversione della valuta in euro, con quindi un addebito di commissioni di cambio. Certo, prima di capire quali sono gli intermediari con cui possiamo fare queste operazioni, se possiamo farle tranquillamente presso la nostra banca di fiducia o dobbiamo aprire magari un conto corrente con un intermediario online che opera solo nel, per esempio, trading online, le vorrei chiedere quali sono, a suo avviso, Gianni, gli aspetti di maggior rilievo che balzano agli occhi considerando il caso di Luigino. Lui un po' ce l'ha fatto capire qual è stato quel passaggio del comportamento della banca che l'ha un po' indispettito. Esatto. Sì, siccome questi certificati hanno una durata di solito breve, il tema è che se uno li sottoscrive in euro il problema non si pone. Se li sottoscrive in una valuta straniera, al momento della scadenza del primo, prima del reinvestimento eventualmente in un secondo certificato identico, c'è questo passaggio sul conto euro che prevede quindi un primo cambio da dollaro a euro e un secondo cambio da euro a dollaro, in cui la banca entrambe le volte applica una commissione di cambio. Quindi non è tanto conveniente. E non è tanto conveniente, perché se contiamo che la durata di questi strumenti è breve. Magari 6 mesi, ci si trova a dover fare questa operazione 2 volte l'anno, e questo, diciamo, mortifica i rendimenti peraltro molto bassi di questi strumenti. Mediamente lei sa quanto potrebbero essere queste commissioni? Mi sono dimenticata di chiederlo a Luigino, quanto hanno grattato del rendimento? Francamente sono molto variabili da banca a banca, ecco. Quindi non è un'aliquota fiscale, ovviamente, no, è una negoziazione che viene fatta, è una delle varie condizioni del conto, quindi non è facile dare uno standard. Ma secondo lei tutte le banche fanno questo doppio passaggio quando consentono a un risparmiatore di investire in un certificato di deposito in valuta, oppure ce n'è qualcuna che ne fa solo uno? No, in realtà se il conto di partenza è in euro, questa in euro deve tornare ad essere. In euro deve tornare. In realtà ci sono dei meccanismi per i quali si può evitare questo. Ok, allora non ce lo dica adesso, ma teniamo ancora questo segreto per qualche minuto. Senti, però non è un segreto che siamo in diretta, sì? Facebook, Twitter, YouTube. Mi sono dimenticata di dirlo. Oltretutto ho tenuto sempre le spalle ai nostri telespettatori. Eccoci qua, Lupotto. Adesso, è contento? Questo non lo sapevo, per fortuna che mi sono pettinato. Noi no, invece, come possono vedere gli ascoltatori. E qua ci sono gli ovetti. Gli ovetti con il ripieno dolcissimo dopo di nocciola. Esatto, quindi il pasto è completo oggi, vedi? Non c'è tanta verdura e tanta frutta, però c'è il dolce direttamente. Adesso, a proposito di dolce, andiamo velocemente mercati. Ai mercati, poi andremo a fare un giro per il mondo per raccontarvi quali sono le valute considerate un po' più stabili e sicure, quali invece adesso oscillano molto ed è meglio starne un pochino lontani. A tra e poco. Poi il domandone. Sì, l'ho già fatto all'inizio, adesso lo rifacciamo. Ma lo rifacciamo. Cuore e denari. Una monetina a te, una te, una monetina pure a te, così fanno tre, una monetina per questa serata che non... Dobbiamo invitarlo, Daniele Silvestri, perché ha creato questa canzone che sembra fatta apposta per noi. Allora, noi questa mattina stiamo parlando di investimento in valute. È un mondo molto complicato, anche se in realtà siamo partiti da un caso abbastanza semplice, quello di Luigino della provincia di Cosenza, che aveva dei certificati di deposito espressi in dollaro americano e sterlina inglese, evidentemente. Lui ne voleva fare un uso molto concreto e pratico, viaggia, per cui era il suo, come dire, conto d'appoggio, se vogliamo considerarlo così. Qualche volta si investe in valuta andando su strumenti anche un po' più sofisticati, adesso ci arriveremo con il nostro Gianni Lupotto, il nostro consulente indipendente, che ha dato già anche dei primi commenti rispetto al caso del nostro Luigino. Vorrei però... aspetta un attimo, cos'è che avevamo promesso prima? Allora, il domandone... Allora facciamolo, va, sì. Dai. Il nostro rischia tutto. È semplice, molto, è assolutamente a tema. È a tema la domanda. Come si chiama il mercato in cui ogni giorno avvengono miliardi di miliardi di miliardi di scambi nelle valute? 800 24 00 24 per guadagnarvi un libro di Cuore e Denari, mentre gli cioccolatini di Gianni Luppotto li teniamo qua con noi perché dobbiamo completare la dieta dopo la pasta alla carbonara, giusto? Ovetti. Però vorrei anche fare un giro nel mondo perché voglio capire un po' come stanno andando le principali divise internazionali in questo momento, quali sono quelle più movimentate, quelle più stabili, quelle da osservare con cura particolare. Ci racconta tutto un'altra amica di Cuore Denari e di Investire Informati, Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation, perché anche su questo terreno è necessario fare educazione finanziaria, che è il grande impegno di questa fondazione. Segre, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Io partirei dal tema del giorno, che è l'incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping, chissà se l'ho pronunciato correttamente, perché proprio all'inizio dell'anno, ma in realtà è un tema ormai vecchio, gli Stati Uniti avevano accusato ufficialmente la Cina di manipolazione del mercato valutario. Forse discuteranno anche di questo in Florida i due leader politici. Segre, ma insomma, questo rapporto di cambio oggi com'è? Ma questo rapporto di cambio non fa altro che riflettere gli sforzi che hanno fatto i cinesi per completare il processo di liberalizzazione e far entrare questa divisa di diritto nelle divise, nelle poche divise che compongono le riserve internazionali, e quindi erodere un po' di spazio al super dollaro. Quindi è un rapporto, direi più che di cambio, un rapporto politico di cambio, perché la detenzione di un numeroso quantitativo di treasury americani nelle casse della banca centrale cinese. Il treasury americani sono i titoli di Stato emessi dagli Stati Uniti, dal tesoro degli Stati Uniti. Esattamente, creano proprio un disequilibrio che vedrà questa discussione sul surplus cinese e sulle questioni della Nord Corea una, diciamo, priorità alla politica rispetto a quella che potrebbe essere una guerra commerciale dei campi. Lei prima ha parlato di super dollaro, continua ad essere ovviamente la valuta di riferimento per tutti, ma secondo lei il trumpismo, il protezionismo di Trump farà muovere il biglietto verde in quali direzioni prossimamente? Ma il trumpismo non si può permettere, visto che deve fare dei piani infrastrutturali e fiscali che ovviamente costano dei soldini, e visto che la riforma dell'Obamacare non sta funzionando tanto, direi, avendo bisogno di soldini, un dollaro troppo forte, quindi al di sotto del livello di 1.05 rispetto all'euro, creerebbe dei problemi alle corporate americane. L'attuale livello, che sta tra 1.06 e 1.08, un livello di, direi, diciamo, equilibrio di mercato, un ulteriore indebolimento favorirebbe certamente le corporate americane. Andando alle altre divise che vengono considerate tradizionalmente come rifugio, leggevo stamattina che lo yen, la divisa giapponese, è ai massimi da 4 mesi appunto sul dollaro. Anche in questo caso abbiamo delle discussioni in corso tra Giappone e Stati Uniti, sempre per i temi di equilibri commerciali. Assolutamente sì, e lo yen, che anche rispetto all'euro ha già messo segno dall'inizio dell'anno un bel 4%, è una delle divise utilizzate proprio per fare quelle operazioni di carry trade che portano verso investimenti in divise ben più pericolose, ben più rischiose, e che stanno dando rendimenti tra il 5 e l'8%, come il peso messicano e il rublo russo. Il carry trade, ne parlavamo tantissimo qualche anno fa, vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori di che cosa parliamo quando parliamo di questo meccanismo, che in realtà identifica il modo di indebitarsi in una valuta che naturalmente è conveniente per andare ad investire su un'altra, no? Che magari ha più prospettive di rialzo. Io l'ho molto banalizzata, Segre, ma forse più o meno è questo. Sì, laddove ci sono dei tassi più bassi, quindi il finanziamento costa poco, l'esposizione valutaria in divise che rendono molto permette di coprire il costo del finanziamento e di guadagnare sulla valuta. E questo proprio, secondo me, è il cardine di quello che avete discusso anche con Luppotto, cioè il fatto che l'esposizione verso il rischio di una valuta estera, e quindi verso un prodotto che può essere coperto dal rischio valutario o non coperto, necessita una riflessione informazioni sulla protezione del portafoglio riguardo proprio non solo al rischio azionario obbligazionario ma anche al rischio valutario. Quindi anche questo tipo di operazioni deve essere fatte tenendo conto che ci sono dei costi da affrontare. Infatti, un'ultima domanda, Segre, a parte, va bene, quelle con cui abbiamo magari maggior confidenza perché ne leggiamo un po' di più, da tempo parliamo della sterlina perché è crollata dopo Brexit, parliamo del dollaro per il trumpismo, di euro parliamo necessariamente perché è la nostra divisa di riferimento, ogni tanto parlando di beni rifugio ritorniamo a richiamare l'andamento del franco svizzero, ma se dovessimo invece fare la panoramica di quelle che oggi, di quelle monete, di quelle divise che oggi hanno il fermento più forte sui mercati, quindi quelle che hanno delle oscillazioni profonde, per cui se investiamo là dobbiamo considerare anche questi aspetti, quali sono? Ce ne dia due o tre. Ma sicuramente, ribadisco, il peso messicano è la più sottovalutata in assoluto, che ha modo di recuperare ancora rispetto a quello che ha già fatto guadagnare, e lo stesso è per il rublo russo. Direi invece lontani dall'ira turca in vista del prossimo referendum costituzionale, dal rand che potrà perdere ancora a causa della crisi politica. Il rand sudafricano. Esattamente, e quindi bisogna stare molto attenti che poi c'è invece tra le valute interessanti il won coreano e la rupia indiana. Quindi attenzione al modo di esporsi alle valute che sono molto allettanti, però ovviamente vanno a erodere sia la cedola che il possibile rendimento del prezzo di mercato. Allora, peraltro in India che hanno visto delle elezioni recenti e che pure evidentemente hanno movimentato un po' il mercato della valuta di riferimento. Grazie a Claudia Segre, velocemente, no, insomma, questa panoramica ci è servita anche a spiegare ai nostri ascoltatori che spesso approcciarsi a questo mercato non è proprio un gioco, perché guardate che le dinamiche sono veramente a noi comuni mortali spesso incomprensibili, hanno a che fare con la politica, gli scambi commerciali a livello mondiale, per cui ci sono tanti aspetti da considerare. Cuore e denari. Il domandone di oggi, come si chiama il mercato in cui avvengono gli scambi delle valute? Vi do un altro indizio, è stato creato nel 71 come conseguenza della nascita dei tassi di cambio fluttuanti. 800 24 00 24, il numero verde a vostra disposizione se vi volete guadagnare un libro della nostra nutrita biblioteca. Allora, Gianni Lupot, nostro consulente indipendente, stiamo affrontando il caso di Luigino dalla provincia di Cosenza, certificato di deposito espresso in valuta, abbiamo spiegato come funziona, le motivazioni per cui questa persona aveva fatto questo tipo di investimento, che in realtà nel caso di Luigino non era neanche un investimento per raggiungere un determinato obiettivo di vita, ma proprio per diciamo risolvere determinati problemi di natura della sua vita appunto pratica, perché ha una figlia negli Stati Uniti, se non ho capito male, per cui gli faceva comodo avere questo deposito. Ecco, detto ciò, abbiamo commentato il fatto che lui investendo da questo certificato di deposito, arrivato a naturale scadenza, la banca poi lo faceva reinvestire perché lui voleva mantenerlo e quindi pagava la doppia commissione di disinvestimento e contestuale reinvestimento. Volendo risolvere questo problema, esistono banche, Lupotto, che permettono i conti in valuta ma che magari evitano questo doppio passaggio? Lo dicevamo anche prima, probabilmente sì. Sì, ci sono due possibili soluzioni che passano entrambe attraverso l'accensione di un conto valutario. Molte banche lo offrono come sottorubrica del proprio conto corrente, può essere denominato in diverse valute, certamente tutte le principali, tra cui il dollaro e la sterlina. In questo caso, sottoscrivendo un certificato di deposito in valuta in dollari, ad esempio, su un conto in dollari, denominato in dollari, non c'è questo meccanismo del doppio cambio, perché i proventi dell'investimento vengono riaccreditati sempre in dollari. Un'altra strada possibile, che elimina addirittura la necessità del certificato di deposito, è quello di vedere se la propria banca, alcune lo fanno, offre dei conti correnti vincolati in valuta. Quindi si apre un conto in valuta, si deposita la cifra che ci interessa e chiediamo una remunerazione direttamente sul conto corrente, vincolando la cifra per un certo periodo, 6, 12 o 18 mesi. Senta Lupotto, ma nell'ottica di una diversificazione adeguata, che è sempre quella che raccomandiamo ai nostri ascoltatori, lei prima applaudeva un po' l'atteggiamento caso di Luigino, diceva, ha fatto bene a riservare una piccola porzione del suo portafoglio appunto in queste monete. Ma lei ritiene che sia sempre una opzione da considerare, oppure occorre avere un profilo quantomeno un pochino evoluto come risparmiatore? Distinguerei tra valuta e valuta. Se parliamo delle valute, chiamiamole classiche, le valute forti, come il dollaro, come la sterlina, in questo caso la fluttuazione dei cambi nel lungo periodo ritorna più o meno sempre allo stesso punto, quindi fluttuano nel tempo ma ritornano, e quindi il rischio è un po' mitigato, e allora una componente valutaria ci può stare un po' in tutti i portafogli, anche perché per esempio il dollaro in questo momento ha un rendimento migliore dell'euro. Se parliamo delle valute più emergenti, quelle di cui a cui accennava anche Claudia Segre prima, farei molta più attenzione. Se uno non ha la possibilità di confrontarsi con uno specialista, starei un po' alla larga, perché le oscillazioni possono essere anche molto brutali. Allora, ammettendo che si abbia questa possibilità di discuterne con uno specialista e che si abbia anche sufficiente pelo sullo stomaco per sopportare queste oscillazioni, se no ci viene il reflusso e dobbiamo richiamare il professor Vaira e fare tutta una trasmissione. Ottimo, quindi una buona notizia, ci rimetteremo insieme l'investimento in valore. Per chi vuole approfittare del rischio cambio e delle sue oscillazioni, dei suoi rischi annessi e connessi, che cosa deve fare Lupotto? Diciamo, il primo step potrebbe essere quello di approcciarsi a questo tipo di investimenti sulle valute emergenti con delle obbligazioni emesse da emittenti a buon rating, tipicamente AAA. Ce ne sono emittenti sovranazionali che emettono, tipo banca, la BRI, Banca Europea, sì, la World Bank, eccetera, emettono in tutte queste valute, tra le quali quelle citate da Claudia Segre prima, e su cui io condivido una view positiva, il peso messicano, il rublo. Quindi invece che per esempio sottoscrivere direttamente un'obbligazione emessa dal tesoro turco, andare direttamente su una obbligazione emessa dalla Banca Mondiale espressa però in lira turca. Sì, esattamente, in questo caso non abbiamo rischio emittente, perché magari il tesoro turco ha un merito di credito più basso della World Bank, e quindi non ci prendiamo rischio di credito e ci concentriamo sul rischio cambio, avendo come contropartita un buon tasso di interesse, perché queste valute pagano tassi tra il 5 e il 10%. No, interessante, perché secondo me è un'opzione che viene scarsamente considerata da chi peraltro vuole prendersi questi. Peraltro alcuni di questi titoli sono quotati anche in borsa italiana, al MOT, quindi con un'accurata ricerca si possono trovare. E hanno magari maggior liquidità rispetto ad una sottoscrizione diretta con l'emittente. Ci sono dei titoli non quotati, quindi bisogna rivolgersi alla propria banca, potrebbe esserci un problema di liquidità. Quelle quotate normalmente sono più facilmente accessibili. Per chi sopporta la volatilità, dicevamo, e gli sbalzi di umore appunto delle valute, un modo per investire in questo mercato è quello di sottoscrivere obbligazioni espresse in queste divise. Altre opzioni, Lupotto, ci sono anche fondi di investimento diversificati. In questo caso, così ricominciano a dire che io faccio la solita venditrice dei fondi del risparmio gestito, così li ho accontentati anche oggi, detrattori. Ci sono anche strumenti collettivi, fondi o ETF che investono in specifici mercati. Bravo che ha citato pure l'ETF, perché se non si è mai che facevo figli e figliastri. Naturalmente in questo caso ci si espone a più di un rischio, il rischio di cambio e anche il rischio di mercato, perché magari questi fondi, questi ETF investono in azioni, no? E quindi hanno una componente azionaria e una componente valutaria che vanno considerate. Non dimentichiamo un'ultima cosa, che molto spesso noi investiamo in valuta straniera in modo anche inconsapevole. Per esempio, non so se tutti sanno che a nostra insaputa, come le case che venivano regalate ad un noto politico, per esempio, se noi investiamo in oro fisico, implicitamente investiamo in dollari, perché la valuta di quotazione dell'oro è sempre il dollaro americano, quindi anche se noi acquistiamo pagando euro, poi l'oscillazione del prezzo dell'oro tiene conto anche del cambio euro-dollaro. Noi stiamo andando verso la chiusura, però io, Gianni, le vorrei leggere un SMS di Davide, perché secondo me questo ci dà un bel assist per fare un'altra trasmissione più avanti, un po' sui concetti generali dell'educazione finanziaria, perché Davide scrive: e se io ce l'avessi qua gli darei una bacchettata sulle mani, ma con naturalmente affetto, perché lui chiede: potreste chiedere a Lupotto se il Forex, ecco qua, io ho dato già la risposta del domandone, ma vi assicuro che in tanti avevate risposto e adesso in automatico premieremo, può essere praticato come hobby per avere una seconda rendita o può essere solo materia per professionisti? Ecco, l'ha già scritto lui, la domanda include anche la risposta. Ecco, ti dia una risposta. Come hobby nessun tema di investimento deve essere trattato. Nessun tema è una cosa importante, Davide. Cioè, non ci si può dedicare all'investimento del proprio denaro come hobby. Stai già mangiando io mi sto dedicando ai miei ovetti, Davide, però insomma, magari dalla sua domanda partiremo con una, con una bella trasmissione. E peraltro va fatto con molta serietà e in quel caso bisogna fare attenzione che ci sono anche intermediari molto disinvolti. Oh, bravo. Però se Davide ci chiama diventa protagonista della nostra posta assolutamente del cuore denari. Francesco da Latina, io così un po' mi sono lasciata sfuggire la risposta, però lei la sapeva, vero? Sì, io risposto subito, il Forex. Grazie. Vabbè, eravamo per fortuna che me la sono lasciata sfuggire sul finale, insomma, ma il caso di Davide imponeva di fare subito un commento. Grazie a Francesco, a cui partirà subito la missiva con il nostro libro. Beh, stavolta lo facciamo firmare a Gianni Luppotto. Dai. Invece che a noi. Grazie. Ah no, tra l'altro c'è l'ascoltatore che ci ha scritto, ma io ho cercato su internet, dov'è questo libro di Cuore e Denari? Ma non, c'è il libro della donna di Denari, no, andatelo vabbè, a cercare. Torniamo domani, a tutti buona giornata. Ciao a tutti.